allora direi che possiamo iniziare la nostra serata. Saluto i nostri ospiti, il professor Francesco Rovat e don Paolo Renner, che lo accompagnerà nella presentazione appunto del nuovo libro che, come vedete, si titola Beatitudine, Angelus Silesius e il Pellegrino Cherubico. Allora, questa rientra chiaramente in una delle tante iniziative che la Biblioteca Provinciale organizza settimanalmente per favorire l'incontro con autori e autrici e il pubblico e quindi anche in questa maniera solleticare, incentivare un po' la lettura, nella convinzione che leggere o comunque tenersi informati, tenersi in contatto, frequentare anche le biblioteche che sono dei porti aperti dove si può entrare. E ogni tanto mi perdoni don Paolo Renner, perché io ogni tanto la biblioteca la paragono a una chiesa, no? In chiesa si entra, non bisogna iscriversi, ecco, e soprattutto insomma si può entrare, stare e pensare, riflettere, ricavarsi anche uno spazio proprio, come nel caso della biblioteca, e godere anche di un momento di pace, di serendipity, come viene chiamata, per se stessi, ma soprattutto per crescere e per essere magari delle persone più consapevoli e libere. I libri ci aiutano perché i libri contengono delle opinioni, delle informazioni e quindi ci aiutano anche a vedere una realtà che magari ci appartiene con degli occhi diversi, dandoci anche degli strumenti diversi. Qui dietro alle mie spalle c'è una vetrina dove abbiamo così raccolto i libri scritti da Francesco Rovat, perché è una persona appunto che ha non solo svolto un'attività come docente, ma anche a tutt'oggi è attivo nell'ambito della critica letteraria e collabora appunto nelle pubblicazioni, ma soprattutto è anche autore di numerose pubblicazioni che qui trovate in parte esposte. Ringrazio appunto anche voi che siete qui con noi, sarà una serata molto piacevole ma molto impegnativa, penso, visti anche i contenuti, e vi invitiamo anche a tornare, se avrete piacere, giovedì questo, il 10 di febbraio, nella sala sotto della nostra biblioteca, dove invece incontreremo Francesco Marchioro, che ci parlerà di Freud, presenterà il suo libro Freud, aforismi, metafore e passi. Sempre di giovedì... Il 6 o il 13? Il 10, giovedì. Giovedì 10, mi sono persa il filo, stavo pensando a giovedì, che alle 15.30 noi organizziamo sempre un corso gratuito per imparare ad usare la piattaforma BiblioWeb, quindi leggere giornali in 50 più lingue, quotidiani, anche riviste, e soprattutto scaricare degli ebook sempre gratuitamente. Questo è l'appuntamento del giovedì alle 15.30 in biblioteca, ma poi vi rinvio appunto a lunedì prossimo, il 10 febbraio, per la presentazione con Francesco Marchioro e il suo libro su Freud. Intanto vi lascio in compagnia dei nostri due illustri ospiti, vi invito a tornare anche in biblioteca perché abbiamo sempre tante novità e iniziative da proporvi. Ringrazio ancora e buona serata a tutti. Grazie. Grazie cara Valeria di questa introduzione, scusa se ti ho corretto, ma io sono censore ecclesiastico del libro, quindi devo correggere gli errori sui libri e anche sui bibliotecari e così via. E trovo molto indovinato il tuo paragone fra la biblioteca e la chiesa, perché in entrambi gli spazi si dovrebbe osservare un certo silenzio, un accoglimento, sono spazi di interiorità. E dico, ci sono due tipologie di libri, questi stampati e poi il grande libro della creazione, no? Anche la natura è un libro che ci parla di Dio, eccetera. Quindi sono libri sia scritti sia viventi, che hanno molto da dire. L'anno scorso per i 10 anni delle Dolomiti UNESCO ho parlato in difesa delle nostre sante Dolomiti, quindi sono libri santi anche di pietra, e c'è molto da imparare dai libri, che sono, quando mi chiedono ogni tanto, posso confessarmi apertamente, qual è il tuo piacere più libidinoso, io dico potermi sdraiare su un prato e leggere un libro. no? Perché un libro ti dà delle emozioni, delle sensazioni, ti scava dentro, ti fa volare, ti sbatte giù, ti tira in giro, ti fa scoprire le tue ignoranze, ti ravviva le tue conoscenze. È un amico terribilmente prezioso il libro, quindi grazie della tua introduzione e bentrovati, benvenuti a tutti. Mi permetto di dare io l'avvio a questa chiacchierata a due voci, ringraziando Francesco Roat che ha affrontato già da molto tempo e con grande competenza questa materia delicata della mistica. Il titolo del suo libro, Beatitudine quanto mai indovinato, è provocatorio, perché mentre gli antichi si interrogavano sul De Vita Beata, e Cicerone, Agostino e tanti volevano trovare l'equilibrio e la sapienza giusta per una vita beata, oggi si cerca piuttosto la felicità e la si confonde con l'appagamento di stimoli piuttosto banali, piuttosto istantanei, che si bruciano e si salta di divertimento in divertimento, quindi si diverte, si esce fuori dal proprio percorso, ci si perde a volte, ci si snatura, si cade in eccessi, si cade in bassezze, si prova un po' di tutto, l'ebbrezza di questo, l'ebbrezza di quell'altro, e non si trova la beatitudine, perché la beatitudine è una cosa grandiosa nella sua piccolezza. Mi ricordo la stretta parentela tra la beatitudine e la felicità autentica, come la descrive ad esempio Trilussa nella sua famosa poesiola sulla felicità, no? Un'ape si posa su un bocciolo di rosa, lo succhia e se ne va. In fondo la felicità è una piccola cosa. E il grande Darwin, maestro dell'evoluzionismo, eccetera, diceva: mi viene la vertigine se penso alla formica che porta fino a 20 volte il suo peso, o all'occhio umano con la sua capacità di adattarsi, di altre cose. E persone che hanno avuto un approccio scientifico, empirico alla realtà, ma anche una dimensione mistica, cercare quello che sta oltre, quello che è celato, quello che si rivela, cioè si svela e torna a velarsi, si manifesta e torna a nascondersi, l'aletheia, la svelata che però non è mai svelata del tutto, perché la nuda verità non esiste e non la conosceremo mai finché siamo sulla terra. È, diceva Silesio, un deserto che sta oltre Dio. Una volta che hai trovato Dio c'è ancora un deserto più in là. Sono immagini che magari a un cattolico molto romano possono creare fastidio, ma se uno è veramente catholicos, cioè universale, respira in questa dimensione più alta. Ebbene, ho apprezzato questo libro di Francesco Roat, che ho avuto modo di leggere già nelle bozze di stampa via sussidi mediatici e così via, perché ci presenta un autore unico nel suo genere. Angelo Silesio non finisce di stupire, e per la sua biografia, non so se la dirà poi un po' lei, la racconterà un po' lei la biografia di Silesio, per la biografia, ma anche per questo lavoro che ha creato, che io lo definisco, non me ne voglia Angelo Silesio, un duplice grimaldello. Il pellegrino cherubico è un grimaldello che penetra delicatamente ma fermamente nel mistero di Dio, osa sfidare il mistero di Dio, si confronta con questo Dio che per lui è sempre scritto in modo particolare, Ghe o maiuscole, Got, no? Got, come questo cerchio, questa circonferenza, questa perfezione, ma è un grimaldello da maneggiare con prudenza, perché ti entra e ti scava dentro. Sono espressioni che io ogni volta che le leggo mi danno un'immensa gioia da una parte, mi fanno intuire dimensioni sconfinate e mi fanno riscoprire molto limitato. Mi fa un bene maledetto leggere il Pellegrino Cherubico, perché è un testo che non ti comunica, è un testo che ti scuote, ti coinvolge, ti sconvolge delicatamente, non con la violenza dei parolai del nostro tempo, ma con la delicatezza di una piuma che ti fa un solletico profondo, che ti smuove nell'intimo e che ti invita a cercare, a non accontentarti di quello che sai, no? Perché il sapere è uno strumento relativo, ci vuole un approccio diverso al mistero di Dio, ci vuole l'approccio che Gabriel Marcel diceva, sa distinguere tra il problema e il mistero. Il problema è una questione settoriale, una sfida limitata della vita che posso affrontare e sperare anche di risolvere, di gestire, di prendere per le corna, per prendere in pugno. Il mistero no, perché il mistero non è una particella, uno spicchio dell'esistere. Il mistero è ciò in cui siamo avvolti, immersi, è più grande di noi. Come dice il Salmo, come dice Giobbe, se ti cerco nell'intimo, nell'alto lato sei, se scendo agli inferi, eccoti. Dio è dappertutto, quindi non riesci a mettergli il sale sulla coda, non riesci a definirlo, a mettergli dei confini, a chiuderlo dentro una scatola, no? E quindi per noi teologi Angelo Silesio è un po' un terrorista che sconvolge quelle dottrine, quei dogmi, quelle certezze che noi vorremmo fossero scritte in rosso e sottolineate. Invece lui ti ribalta tutte le cose, rimette in discussione e ti fa capire che il mistero non puoi comprenderlo, non puoi prenderlo con te, non si comprende il mistero, ma è semmai il mistero che ti ha generato, che ti sostiene, in lui siamo, esistiamo, ci muoviamo, respiriamo, questo mistero che finirà per comprenderti, per prenderti con sé. Ed è questa la vertigine che descriveva Teilhard de Chardin, scienziato come Angelo Silesio, perché Angelo Silesio era filosofo, era medico, era uomo di scienza, come era la scienza a suo tempo, quindi un empirista da una parte, ma dall'altra parte un mistico, Pierre Teilhard de Chardin, no? Che dice, ecco, la materia, questa stupenda artefice della vita disprezzata dai farisei, ma colei che ci dona l'esistere e che disfacendosi ci consegna all'eterno. Ecco, saper vedere al di là della materia, Teilhard de Chardin la definiva la diafania dell'essere, la diafania, cioè un controluce lattiginoso che ti lascia intravedere al di là. E così è un po' il Pellegrino Cherubico, un testo diafano pieno di questi aforismi che sono a volte delle garbate e velate allusioni e a volte degli squarci di luce. È un testo molto discontinuo, è un testo che ti fa passare dal passo della formica al volo rapido del falco. È un testo inebriante che merita di essere conosciuto. Per questo ringrazio Francesco Rad che ha voluto far conoscere al pubblico italiano, che poco sa di Angelo Silesio, questa personalità e questa sua produzione così elevata. Passo dunque la parola a Francesco Rad e lo accogliamo con un applauso. Grazie. Convinto. Davvero vale la pena, no, più in giù di così non va, si sente? Ecco, davvero vale la pena accostarci a questo grande autore per un paio di motivi. Innanzitutto si tratta di un mistico, si tratta di un sacerdote, si tratta di un medico, abbiamo visto, ma anche, importante sottolinearlo, un grande poeta. Considerato uno dei più grandi poeti, forse il più grande poeta di lingua tedesca dell'epoca barocca, del 600 soprattutto. E dove sta questa specificità? Proprio in questa sua duplice pedaliera, o molteplice pedaliera, ecco, in questo suo essere uomo di intelletto, uomo di ragione, ma anche uomo di intuizione, di emozione. Ecco, non so, l'idea che dicevo alla signora che prima mi ha intervistato, che la poesia possa dire qualche cosa di più rispetto alla discorsività della ratio, del logos, comunque lo possiamo intendere. Cioè che la parola poetica sia qualcosa che vada oltre, no? L'ambito del normale con cui noi ci muoviamo, in cui noi parliamo. Ecco, se vogliamo citare Wittgenstein, l'ultima proposizione del Tractatus Logico-Philosophicus, lui con un po' di perplessità dice: su ciò di cui non si può parlare è bene tacere, e si riferiva all'ambito metafisico, a Dio stesso, dice: stiamo zitti perché è meglio. Ebbene, Silesius prende in mano il bandolo della battaglia e dice: no, io voglio parlare invece, io voglio dire egualmente intorno a ciò che talvolta ci ammutolisce. Con l'arma della poesia lui riesce davvero a dire qualche cosa intorno a queste dimensioni, chiamiamole trascendenti, ma anche qui rischiamo, con le parole appunto della teologia e della filosofia, di smarrire il sentiero, di smarrire invece questo pellegrinaggio, che è un pellegrinaggio esperienziale, esistenziale, concreto, non astratto, teorico. E due parole su questa parola così abusata, mistica, che giustamente il mio presentatore l'ha legata alla parola mysterion, che tutte e due queste parole derivano appunto da un verbo del greco antico myein, che vuol dire tacere, che vuol dire chiudere gli occhi, chiudere le porte dei sensi, potremmo dire. Quasi che è qualche cosa che ci sconvolge al punto, che ci supera al punto, che ci illumina e al contempo abbacina, no? Che noi non possiamo fare altro che abbassare la fronte. Del resto è quello che facevano gli iniziati ai misteri in antico, quando di fronte alla statua della dea a cui improvvisamente veniva tolto il velo, ammutolivano e tacevano. Ecco il mistero, no? Quello che non si può in realtà davvero svelare, ma che nel momento stesso in cui viene svelato ti rimanda ad un'interiorità profondissima. Non so se chi è stato un autore tedesco, in questo momento non me lo ricordo, deve essere Novalis, che dice: nel momento in cui viene tolto il velo alla vera Iside, si accorge che al posto della statua della dea c'ero io, ti mette in confronto con te. Ecco, e la mistica vuole questo, vuole appunto accostarsi, avvicinarsi a questa dimensione che è stata chiamata dell'oltre, che è stata chiamata del trascendente, però dicendo che questo trascendente deve anche essere immanente, noi lo dobbiamo vedere come calato. Il Dio puramente metafisico in fondo non ci accontenta. Dicevo prima alla signora: noi preferiamo Cristo, noi preferiamo il Dio che si incarna, signori, non me ne faccio niente dell'iperuranio, perché è lontano da me. E allora ben venga questa possibilità di trovarlo, reinvenirlo, ritrovarlo nella nostra dimensione, nella nostra vita, nella nostra autenticità. Altrimenti diventa parola astratta, parola fredda, parola che non scalda i cuori. Ecco, e allora che cos'è questo percorso, questo pellegrinaggio? Solo questo: riuscire a, come dire, spogliarci da tutta una serie di incrostazioni, sia culturali che anche prodotte da un immaginario che è poi quello. Allora nel 600 non c'era il consumismo, ma alla fin fine c'erano valori cosiddetti che venivano chiamati mondani, con una parola un pochettino che svilisce, io lo capisco, il cosiddetto contemptus mundi, no? Il disprezzo del mondo, ma non è vero. L'autentico contemptus mundi è in realtà misurarci sul serio, realmente, con ciò che davvero vale nel mondo. E allora in questo senso certe sovrastrutture, certi pseudovalori sono davvero da disprezzare, da allontanare. Qual è il compito del mistico? Ecco, predisporsi ad un distacco buono dalle cose, che non vuol dire apatia, è importantissimo, che non vuol dire, come dire, scarsa attenzione nei confronti degli altri o nei confronti, come dicevo, delle cose, assolutamente, significa piuttosto non attaccamento, significa non creare legami che costituiscono delle catene, dei legacci, degli impedimenti, non significa non sentire, non provare, non soffrire, anzi, l'importanza della sofferenza è fondamentale. Noi svegliamo questo aspetto. Noi oggi tendiamo a dire lontano da me questo calice, oddio, è ben vero che l'ha detto anche Gesù in un momento di crisi, ma subito dopo ha detto un momento, se non se ne può fare a meno, la necessità vailiana, no? Se non è possibile non doverlo attraversare, ebbene sia così. Ecco, il sia fatta la tua volontà non è parola pietistica e in fondo quietista, assolutamente, è un impegno a misurarci appunto con la durezza della necessità, il che non vuol dire appunto che non vi sia, come dire, che il Dio sia indifferente, assolutamente, semplicemente noi dovremmo per un istante smettere di considerare le cose sotto un aspetto solo negativo. Noi tendiamo a dire che la malattia è male, bisogna liberarsene al più presto, e se fosse da doverla attraversare, quando i rimedi che abbiamo a disposizione, non lo so, veniamo all'attualità, il coronavirus, ok, ma che esemplarità questa dei due coniugi cinesi che molto serenamente, direi quasi taoisticamente, con una perfetta tranquillità ringraziano le autorità italiane, dicono che stanno trovando benissimo, eppure rischiano di morire perché non ci sono cure per il coronavirus. Si spera che l'organismo reagisca, però anche qui, appunto, di fronte all'ineluttabile, a quello che umanamente non possiamo, o non possiamo ancora, per carità, auguriamoci di curare tutte le malattie possibili e immaginabili, ma ci sarà sempre un limite, no? Per quanto si possa immaginare, per quanto si possa preconizzare l'idea dei 120 anni, dei 150 anni, e dopo avremo, e poi avremo altri tipi di malattie. Io temo che non possiamo esorcizzare appunto il male inteso come sofferenza, perché appunto il male, noi sappiamo benissimo, ha due aspetti. Uno è l'azione immorale, l'azione, come dire, mossa soltanto da un desiderio egocentrico di ottenere la nostra comodità, il nostro benessere, no? E altro è il male inteso proprio come sofferenza, come innocente che viene, sembra quasi che venga castigato dalla sorte o da Dio, no? E allora ecco lo scandalo, no? Si Deus unde malum, se Dio perché il male. E però abbiamo imparato da Giobbe che non possiamo trascinare Dio in giudizio, e giustamente il Dio di Giobbe gli dice, con i termini della cultura in cui è inserito, perché tutto deve essere sempre contestualizzato, non possiamo illuderci di fare un discorso al di là o fuori della cultura. Leggevo Panicker in questi giorni, vi inviterei a leggerlo, ma è troppo grosso, 700 pagine, filosofia e teologia, c'è da piangere, uscito da Jakabuk, bellissimo. Diceva: non possiamo più illuderci che ogni nostro discorso non sia figlio della cultura in cui esso è inserito, figlio della lingua che noi parliamo, intesa nella sua accezione più ampia. Non possiamo noi, come dire, illuderci di staccarci dal mondo per vederlo da fuori, perché noi siamo immersi nel mondo. Il soggetto fa già parte dell'oggetto, nel momento in cui lo giudica è già giocato in esso, non può arrivare alla neutralità, perché siamo già in questo mondo. Non lo possiamo cogliere dal di fuori. E allora ecco questa capacità di resistere alla facile soluzione di etichettare e già decidere questo è bene, questo è male. Ecco, un altro grande poeta e un'altra grande persona che ha sofferto, Hölderlin, l'uomo che a 20 anni pareva avesse in mano il mondo, no? ha conosciuto gente come Goethe, come Schiller, era amico di Hegel, compagno d'università di Hegel, già le prime raccolte, le prime cose poetiche, il cammino doveva essere quello di un percorso trionfale. No, a 30 anni o poco più viene colpito dalla schizofrenia e viene ammutolito. E arriva ad una, come dire, afasia. Eppure nel momento in cui chiusero la torre di Tubinga, esiliato dal mondo perché, ecco, avevano pagato questo povero falegname che lo accudisse, questo potete capire, lo faceva uscire una volta in settimana da casa e se no era chiuso lì. Dopo l'aver perso tutto, la propria dignità, la propria capacità anche di chi andava a trovare diceva che non riusciva a articolare un discorso, non riusciva a mettere insieme una frase, era un'insalata di parole, l'uomo che era il poeta tedesco per antonomasia. Ebbene, riesce di nuovo a poetare. Nell'estrema malattia scrive le letturniche di Ichte, le poesie della torre, che sono meravigliose, sono semplicissime, sono come le avesse scritte un bambino, sono di una purezza, di una bellezza meravigliosa. Ed ecco che Hölder arriva a dire quello che sembra una bestemmia: alles ist gut, tutto è bene, nichts ist das böse, il male non è nulla. Ma come tutto è bene? Per noi è quasi niente è bene. Oppure potremmo dirle in altri termini, come è stato tradotto Paolo, omnia munda mundis, lo volete così? Tutto è puro per i puri. Cioè, se non riesco a vedere appunto la pagliuzza, non trasformo la pagliuzza nell'occhio del mio vicino in trave che è la mia, allora da un certo punto di vista non è vero che esiste solo la dimensione della sofferenza. Vi può essere, e usiamo questa zelica, questa parola che suona così poco attuale, la beatitudine, la quies, la pace. No, a noi non piace la pace, noi vogliamo l'inquietudine, noi vogliamo il movimento, noi vogliamo, no, il mutare oggetto. Noi vogliamo, diceva Lacan, no, che il desiderio è sempre il desiderio dell'altro, dell'oltre, di ciò che non abbiamo, è il desiderio di nulla, di nessun oggetto. Noi veramente desideriamo, ma la sua mancanza. Interessante questo aspetto. Nel momento in cui l'oggetto ci viene dato, certo, lo gustiamo, ma dopo, ecco, la mia Audi non è la Ferrari. E la Ferrari non è il viaggio spaziale. Ma sapete quanta gente si è attentato di scrivere, miliardari, vecchi magari e panciuti, e vogliono fare il viaggio spaziale? Cioè, veramente, ecco. Non so se avete letto, scusatemi, io sono fatto così, è più forte di me. Parto con un discorso, poi mi perdo un pochettino, ma non è un perdersi vero, è lasciarsi portare da quello che uno sente dentro. Non può ieri il Corriere della Sera spendere 8 pagine per parlare del coronavirus. Non si può, perché allora si va dietro, come dire, a quello che la gente vuole sentire. La gente è eccitata da questo venir turbata, ma poi attratta da questo rischio, no? E allora ne parlo. Non ho nulla da dire, perché in realtà non è stato, ma sì, hanno selezionato, gli hanno dato un nome il virus. Parlavo con mia figlia, che è biologa molecolare e medico, mi diceva: ma sì, va là, sì, hanno indicato il suo DNA, poi domani dice muta e sei fregato di nuovo. Il vaccino, dice, fra un anno, quando poi è passata la... Quanta arroganza, quanta pretesa con gli strumenti della ragione, della scienza, della tecnologia, di poter, come dire, ingabbiare, ingessare, inquadrare, controllare il mondo. Il mistico no, non controlla più niente. E permettetemi un riferimento che non era nei miei appunti, ma lo faccio lo stesso, al discorso della montagna, le beatitudini. Quando si parla dei poveri di spirito, quando si parla dei poveri in generale, non è che in realtà Gesù gli promette qualche cosa, soltanto qualche cosa dopo, cioè dice: sta tranquillo, non hai niente, poi ti daremo nel regno dei cieli. No, la beatitudine del povero di spirito è tale già ora. Questo è l'interessante. Cioè, certo, noi possiamo immaginare anche in questa mito, scusatemi, nell'accezione bella del termine mitos, che non vuol dire favoletta banale, non vuol dire, o peggio ancora, menzogna, no, vuol dire parola autorevole della tradizione, quello era. Un tempo presso gli antichi greci, mitos e logos volevano dire la stessa cosa, la parola. Parola vera, parola autentica, che prima era quella che veniva tramandata oralmente, o quella dei grandi poeti, dei grandi saggi, e dopo no, e dopo si è fatta strada soprattutto la ragione. Ciò che non era razionale andava abbandonato, via. E oggi ci rendiamo conto che la pura razionalità non dà conto di tutto, non spiega tutto, non può spiegare tutto. D'altra parte il nostro intelletto di minuscole formiche di questo mondo universo, come possiamo solo immaginare di mettere le bracche a tale universo? Io ho un cognato che è un fisico nucleare, mi diceva: Francesco, guarda, manco provo a dirti com'è la realtà subatomica, perché è meglio star zitti, noi non sappiamo nemmeno esattamente cosa siano queste particelle subatomiche, che ora si comportano come, appunto, dotate di una certa sostanza, la particella appunto, altre volte come meramente energetica, come un'onda. Perché appunto in determinate circostanze la realtà subatomica si comporta in un certo modo, in altre circostanze si comporta in un altro modo. Peggio ancora, quando noi illuminiamo con dei fotoni questa realtà subatomica, la modifichiamo. Ecco che verità, esattezza, certezza nella meccanica quantistica e nella fisica moderna sono usati nel senso di probabilità. Ecco, allora si dice: è molto probabile, come è molto probabile che domani mattina il sole sorga, nulla ci fa pensare che non debba sorgere, ma il bravo scienziato non è così dogmatico, dice: abbiamo 99,999 miliardi di volte 9 che domani il sole ci sia, però nulla ci può dire che la stessa cosa si ripeterà, che le nostre leggi di causa e effetto continuino sempre a comportarsi in questo contesto, in questa dimensione, per quanto ne sappiamo noi, le cose vanno così. Ma torniamo alla mistica e torniamo a certi versi di queste poesie e anche di altri testimoni. Chiacchierando prima con il mio amico Maurizio, dicevo che in realtà Silesius viene dopo tutta una serie dei grandi mistici renani, Meister Eckhart, Taulero, Suso, il ciabattino Jacob Böhme, gente che prima ancora di Silesius ha detto tanto e di interessante. Non so, vi leggo la frase più provocatoria che abbia mai detto Meister Eckhart, che era un sacerdote, che era un professore universitario. Ah, a momenti lo bruciano sul rogo, perché si faceva presto in quei tempi. Prego Dio che mi liberi da Dio. Oh signor, come mai una frase del genere? Che cosa può voler dire? Vuol dire impietà? Non credo proprio. Semplicemente la preghiera a che io non mi lasci, come dire, ingabbiare, fra virgolette fregare da una definizione, che io non pensi di poter essere padrone di Dio, che io non pensi di poterlo esaurire tramite una mia formulazione teorica o teoretica che sia. Allora in un certo qual senso il prego Dio che mi liberi da ogni idolo, da ogni idolatria, da ogni illusione di avere in mano qualche cosa. Ecco perché, vi ricordate quando una volta si andava e si accendeva la candela a Sant'Antonio perché mi faccio passare l'esame? Ma ancora i miei tempi, forse oggi non si fa più, non lo so. Certo, quella dimensione lì va un po' dimenticata, va un po' scordata, non lo so, non mi sembra quella giusta. Ecco, questi mistici ci mettono in crisi proprio perché, come dire, scardinano, per usare l'espressione che aveva appena detto, scardinano sia appunto la ibris, la tracotanza nostra di stare a indicare che cos'è spiritualità, che cos'è vera religiosità, no? E invece la dimensione appunto di una parola che è allusiva, che è immaginifica, certo, limitata anche quella, ma come può andare oltre? Sempre tenendo presente che ogni nostro simbolo è soltanto un dito che indica la luna, non è la luna. Le nostre parole sono nostre parole, ma persino quando cerchiamo di tradurre la parola con la P maiuscola. Vi diceva un mio amico sacerdote, padre Livio Passalacqua, fondatore della Villa Sant'Ignazio di Trento, persino il Vangelo è stato scritto dagli uomini. Certo, hanno cercato di tradurre, hanno cercato di riportare quello che aveva detto il Maestro, ma certamente lo hanno fatto con parole loro. E forse un bene, diceva Panikkar, che il Buddha non abbia mai scritto nulla dei discorsi a lui attribuiti e che il Cristo non abbia mai scritto nulla, perché altrimenti, chi lo sa, forse sì, cristallizzandola in modo eccessivo questa parola, ne faremmo qualche cosa di non vivo, qualche cosa di non esperienziale, dicevo prima, profondo, esistenziale. Ecco, e allora il povero di spirito, sentite che roba, niente vuole, niente sa, niente ha. Roba davvero da far tremare le vene e i polsi. Niente volere, anche questo sembra una provocazione, sembra un'assurdità, come niente volere, voglio la pagnotta ogni giorno, voglio, ma certo, umanissimo, umano, troppo umano, direbbe Nietzsche, tutti i nostri desideri, e però se fosse l'essere capaci di non pretendere, ecco, usiamo quest'altro termine, non pretendere, niente volere, niente pretendere. Niente ritenere che debba essere per forza a nostra disposizione, niente sapere, ma ovviamente un niente sapere socratico. So con sicurezza che purtroppo non vi è possibilità di giungere a certezza definitiva, che anche qui ancora una volta non sarebbe viva, non sarebbe, no, sarebbe qualche cosa di morto, di statico. Chiamiamolo come pietrificato, dicevo prima, cristallizzato, dite quello che volete voi. No, il nostro percorso non ci concede soste, come dire, pacificatrici in senso, in quel senso, del dire siamo a posto, abbiamo trovato. No, siamo in continuo cammino. La nostra deve essere una pace itinerante. La nostra deve essere una quiete in moto, no? C'è un bel aforisma, in questo momento non me lo ricordo più, adesso lo cerco, qui tutti questi pezzi di carta non valgono niente, e dice, mi pare che, ah sì, ecco, più o meno, chi si ferma, chi crede di dimorare, di trovare una stazione nel percorso lungo Dio, dice, è bene che fregato, perché si illude di aver no, ormai trovato la casella in cui situarsi. Assolutamente no. E allora come dire, che cos'è la terza di questo niente avere, come il povero? Niente avere nel senso di la consapevolezza che non siamo padroni veramente di nulla. E del resto è proprio così, in qualunque momento la vita ci può venire tolta. In questo senso davvero siamo solo, come dire, abbiamo solo in affitto le cose. E poi viene la morte, no? E questo matto di Silesius è capace di dire che è das beste Ding, la cosa migliore. Ah, è un matto! Come si fa a dire che la morte è la cosa migliore? Sia pure in termini così immaginifici, poetici, ma perché appunto io dico che nulla muore, riprende poi. Come si declini questo nulla morire? Io non lo so e non lo voglio nemmeno sapere. No, vi ricordate quando gli hanno detto, ma questa aveva 5 mariti, quanti ne aveva, non mi ricordo, erano 5 o 7? Ecco, meglio, dice, con che marito va dopo? E l'altro giustamente gli dice, ma scusate ragazzi, ma parliamo di queste stupidaggini qua? Ecco, Cioè, io non lo so, magari l'ambito paradisiaco è quello promesso ai seguaci di Maometto, che possono mangiare e bere e andare con sette ragazze, una bella immagine. Mi sembra un po' infantile, mi sembra un po' puerile. Questi signori, questi nostri mistici, ci invitano ad andare oltre. Prima accennava al deserto, no? E non è immagine da poco. Questa noce oscura, per dirla con Giovanni della Croce, che dobbiamo attraversare. Non illudiamoci, signori, il cammino della mistica non è una passeggiata. Si deve attraversare il deserto, perché semplicemente tutti noi lo dobbiamo attraversare. È solo questione di tempo. Una volta o l'altra ci viene la privazione, ci viene la sofferenza, ci viene la crisi, ci viene il dubbio che ci attanaglia, il non senso del vivere. Cosa stiamo qui a fare? E allora lì si gioca la nostra capacità di permanere nella difficoltà. Non di cercare di rimuoverla con la pastiglia. Benissimo gli psicofarmaci, vanno benissimo. Certe forme di psicosi senza gli psicofarmaci darebbero una sofferenza che non è opportuno far sperimentare al malato, ma parliamo della gente normale. Perché questo abuso di pastiglie euforizzanti o calmanti? Perché non siamo capaci di sostare un attimo anche nella difficoltà? Perché non sappiamo prendere le distanze? Ecco allora, in questo senso, il mistico che prende le distanze, che non vuol dire non avere a cuore le cose, ma elevati una tantinella. Il solo fatto di guardare le cose da una certa distanza ci permette un attimino di avere un pochettino più di calma, di tranquillità, e le cose rimangono uguali, ma non sei così coinvolto. Ecco, non lo so. C'è questa ricerca, che è una ricerca appunto di autenticità, di liberarci, di sfrondare, uno dice i desideri, far cadere i desideri, ma lo so, detta così non vale niente, non possiamo far, come possiamo amputarci dei desideri? I desideri semmai devono cadere come le foglie d'autunno, devono cadere sulla sponte, insomma, cioè, no, spontaneamente. Oppure per grazia, la vogliamo usare questa parola bellissima, meravigliosa, no? Gratis, cioè che non puoi averla pagando o ottenendola con qualche cosa, ci viene data da Dio. E ripeto, non vi piace la parola Dio, non usatela. A Martin Buber una volta fu chiesto, ma dice, ma non sarebbe meglio lasciare, non usarla più questa parola, roghi, guerre, crociate, inquisizione, dice, non usiamola più perché tanto è tutto un fraintendimento. L'altro ha detto, sì, beh, hai ragione, è stata una parola che è stata molto insudiciata, però io voglio mantenerla perché a me dice ancora molto, no? Si tratta appunto di fare in modo di purificarla di tutto quell'ordume che è stato messo sopra. Certamente mi dispiace che Maestro Eckhart sia finito sotto processo e che sia andato a spulciare le cosettine dicendo che disprezzava le creature, quando diceva le creature sono un puro nulla. Peccato che poi dicesse anche in ogni creatura c'è Dio. Ogni creatura è un libro, per dirla con quello che dicevi prima, in cui si può ammirare il divino. Allora come mettiamo assieme queste affermazioni talvolta sconcertanti? Come mai i mistici usano queste cose stridenti? Perché non hanno paura di contraddirsi? Ma proprio perché vogliono superare la discorsività meramente logica. Non gliene frega niente del discorso che non fa una piega. Loro vogliono provocarti, loro vogliono interrogarti, loro vogliono stimolarti. Per cui, da un certo punto di vista è vero, nulla è importante al mondo. Da un altro punto di vista, una foglia che cade è un mistero universale, una bellezza sconvolgente. Guai però a soffrire se questa foglia marcisce e si decompone, perché dopo la natura ci fa vedere che rinasce sempre. non so come, quando mai si rinascerà, e ripeto, l'ho detto prima, non lo voglio sapere, non ho questa pretesa. Io credo che veramente le pretese di risolvere il mistero che è il vivere siano un segno di veramente di superbia, di intellettuale, che dovremmo lasciare alle spalle. Un'altra parola, abbiamo parlato di distacco buono, cioè di non attaccamento, che naturalmente fa da pandan con il non rifiuto, con la non avversione, per dirla in termini buddisti. Eh sì, signori, perché come c'è l'attaccamento, c'è anche il rifiuto dell'altro, c'è anche questo non mi piace. Parlavamo del non mi piace questa malattia, interessante, va bene, ok. Attenzione al non mi piace, perché se non mi piace è rifiuto a prioristico, noi non andiamo da nessuna parte. Sia nei confronti dell'altro, non mi piace quello che tu dici, il tuo colore della pelle, non voglio neanche entrare. C'è da vergognarsi. Le scritte sui muri, here you, ma roba da matti, uno dice roba da matti, va bene? Leggevo su uno di quei cartelli che com'è che si chiamano, quegli affari dei giornali che esemplificano, riassumono quello che c'è dentro nel giornale, sono posti di fuoco, e diceva che hanno telefonato ai ristoranti cinesi insultando. Cioè, ma vedete la stupidità umana nei confronti di questi signori qui, estremamente umili, non so niente, non sono padrone di niente, non pretendo niente. Ecco, la dimensione di un'umiltà che si fa Gleichheit, che si fa, anche qui uno dice indifferenza, ma no, chiamiamola equanimità. Non indifferenza, non è tutto uguale nel senso brutto del termine, no? E, ecco, questa capacità del mistico di abitare senza turbarsi sia la felicità che l'infelicità, sia la gioia che la sofferenza. Non eroi, assolutamente non sono eroi, sono persone come noi. Dovremmo essere noi, no? Nessun idolo a cui chiedere l'impossibile, che mi liberi dal dolore, no, ma la capacità di attraversarlo, no? La forza di spirito, lo diceva del resto uno strano teista come Hegel, diceva la capacità, lo dice nell'introduzione alla fenomenologia dello spirito, è la capacità di non farsi annichilire di fronte alla morte, di fronte, no, alla tragedia, il tragico. Il mio amico Franco Rella parla ad ogni piacere spinto del tragico. Peccato che però dopo il nostro porci nei confronti del tragico è la vera chiave dell'esistenza veramente umana, no? Come ci confrontiamo con questi aspetti che ci sembrano così non li riusciamo a contenere, no? Ci sfuggono, ci tormentano, ci inquietano. Non lo so, però non voglio tirarla troppo lunga, sono qua alle 7, ci fermiamo. Io vi invito davvero a leggere, se qualcuno ha piacere, questa mia introduzione a Silesius, che termina anche con una piccola antologia. C'è un testo di tutto il Pellegrino Cherubico, che è delle Paolino, un testo grosso così, non ve lo consiglio, perché dopo me lo lasciate lì, perché facciamo fatica oggi a calarci in testo, il resto della stessa Divina Commedia non è da tutti, ecco, allora preferisco magari un'antologia. Questa è solo una piccola antologia. Dopo, chi magari vuole approfondire di più, si va a leggere tutto il testo, tutta l'opera maggiore, si va a leggere quegli autori a cui accennavo prima, no? Meister Eckhart, Jacob Böhme, la teologia tedesca, bellissimi testi. Ancora qualche parola poi vi dico. Parlavamo prima di paupertas, di povertà, ma cos'è questa nudità di cui parlano nelle loro immagini poetiche questi mistici? È proprio questo spogliarsi davvero delle cose inessenziali. San Francesco si spoglia, è figlio di un ricco, se ne frega. Il Buddha è figlio di un piccolo sovrano dell'India. Non fai tre incontri, esce fuori, no? Tutti lo sapete, chi ti incontra? Ti incontra l'ammalato, ti incontra il vecchio, o il vecchio prima, poi l'ammalato e il morto. E ti mettono in discussione queste cose qui. E dice, ma casa mia dove tutto è oro, aveva tutto gente giovane, no? Non li lasciavano nemmeno accanto alle persone anziane, i genitori del Buddha, perché volevano preservarlo. Non ha preservato niente, non si può preservare in questo senso. E allora lui ha detto, no, voglio praticare l'ascesi, voglio praticare la meditazione finché non lo sconfiggerò, questo dukkha, che non vuol dire soltanto sofferenza. Dukkha è termine per dire polisemico, che vuol dire impermanenza, che vuol dire non realtà ultima, che vuol dire cosa effimera. E voleva aggiungere qualche cosa a cui, ma non potersi attaccare come un'ancora, come un... Qui il grund ci insegnava Nietzsche, non c'è più, qui il suolo, qui c'è l'abgrund, ma non deve farci paura questo abisso. Dobbiamo saperlo attraversare. È finito il tempo delle stelle fisse, diceva Galimberti nelle sue prime opere. Non ne abbiamo più le stelle fisse all'orizzonte. E forse è giusto che non ci siano più, ognuno deve trovare il proprio cammino. E accettazione piena, attenzione, che diventa gioiosa, che non è solo, che non è certo passività, assolutamente. Che è anche un continuo dank, no? Un continuo rendere grazie, dire grazie. Certo, ci vuole una bella forza per dire grazie quando le cose non vanno bene. E mi viene in mente quella bellissima, come si chiama, fioretto di San Francesco, quando Frateleone gli chiede, ma quando è che c'è perfetta Letizia a proposito di beatitudine? E l'altro dice, guarda, immaginati di essere d'inverno, col freddo, nevica, davanti al convento, torni a mezzanotte, bussi e ti apre, e chi siete? Malfattori? Qua che chiude la porta, ma no, sono io, frate Francesco, e non aprono la porta, e noi rimaniamo lì fuori, all'addiaccio, con la barba che si gela. Ecco, se in quel momento riusciamo a permanere in uno stato di non rancore, di non rabbia, di non inquietudine, di serenità, lì è la perfetta Letizia. Non la cioccolata che è dolce, lo so che è buona, piace anche a me. Ecco, niente, ripeto, di cose sulle nuvole, di parole d'ordine, di teorie slegate dalla quotidianità. No. Questo è il cammino, mistico in questo senso, proprio perché non cerca, come dire, di appoggiarsi a nessuna forma di teoria, a nessuna dottrina, ma non perché è iconoclasta o perché appunto non si identifica, che so io, con la religione cristiana, eccetera. Ritiene che appunto la parola umana sia una parola alla fin fine povera, limitata, va oltre, vuol guardare in faccia il divino, vuol guardare in faccia la realtà ultima, non lo so. E allora permettetemi, poi chiudo, perché sennò, se poi qualcuno vuole chiedere qualche cosa, fare qualche intervento, eccetera, eccetera, vi leggerò solo un distico, il più noto di tutti, di Rosi Stonevarumb, quel B finale bellissimo, quel perché, no, come gotte hai scritto con due iniziali maiuscole, la G e anche la U, perché è talmente grande che lui le mette tutte e due, no? La rosa è senza perché, fiorisce perché fiorisce, lei a se stessa non bada, non chiede che la si guardi, alt, c'è dentro un mondo. E non stiamo qui a fare esegesi, l'avete già capito anche voi. Nessun perché razionale, nessun saper, no. Il miracolo, perché miracolo è cosa ammirevole, cosa degna di ammirazione, cosa che desta stupore, meraviglia, gioia, il fiore che sboccia e che odora, non ti chiede di essere guardata o annusata, non cerca niente. non si cura del suo fiorire, fiorisce da sola. No? Potremmo dire un Dio protegge, la fa crescere, i giri del campo, quello che volete voi, no? Ecco, alle sit vollkommen, dice Hölderlin, tutto è compiuto, è perfetto, e ha una sua compiutezza nel senso di, no? Alle sit gut, tutto è bene in questa prospettiva. Grazie. Se qualcuno lo vuole acquistare, questo piccolo mio testo è scontato a 15 euro, perdonatemi, ma lo faccio perché la casa editrice Ancora si trova purtroppo in grandissima difficoltà. Parlavo a Trento, sapete che c'è quella bella libreria, no? A Trento, in via 3 novembre, c'è la più grande libreria di Trento, è una propaggine di questa casa editrice che è di Milano. Hanno alcune grosse case editrici a Roma, a Milano, a Trento, da un'altra parte, stanno chiudendo. Ma sì, perché diceva il Signore, la gente preferisce leggere i gialli, va benissimo, non lo so, per questo mi sono permesso di dire, se qualcuno vuole, certo Maurizio, non si può leggere d'un fiato, questi sono testi da apprezzare, direi quasi da mettere sul comodino, ma non vorrei, è non presuntuoso, parla Silesius più che io sono solo un umilissimo commentatore. E una pagina alla volta, piano piano, qui, ecco anche qui la calma, introduciamola anche in queste nostre letture. Non va divorato nulla, non va sciupato nulla, non va buttato via. E perdonatemi ancora che vi ho chiesto queste cose. Avete visto che la mistica è ancora più contagiosa dei virus, perché la passione che suscita, però è una passione che poi fa frenare, perché certi aforismi di Silesio ti impongono di ruminarli a lungo. Certo, è un po' come, per citare di nuovo Francesco d'Assisi, quando era in cammino con due fraticelli un po' chiacchieroni, perché non solo le donne sono chiacchierone, anche gli uomini, e per farli stare zitti disse: adesso ciascuno di noi tre in silenzio prega il Padre Nostro. Bello. I due erano un po' scocciati, però proseguono, dopo tot ore arrivano al convento a cui erano diretti e uno dei due frati fa: io ne ho pregati 836, e l'altro: ah, io 848, e tu, ecco. Francesco? Neanche uno. Come neanche uno? Ci hai detto di pregare? Io mi sono fermato alla prima parola: Padre, Padre, Padre. Ah, bellissimo. E non sono riuscito ad andare avanti, no? Cioè, meraviglioso. Tutto in quella espressione, il mistico è appunto il poeta, certo. Parla di Dio, perché parla con Dio, ne parla con amore. La teologia è in ginocchio, la chiama qualcuno, di Tommaso d'Aquino, che abbiamo appena festeggiato. La teologia che, scusate, la mistica, che a differenza della teologia che spacca il capello in quattro e crea divisioni, no? Questo è cristiano, questo è musulmano, questo è ebraico, questo poi è buddista, ecco. E addirittura ha creato problemi ecumenici. Figlioque, o per figlio. Bravissimo. È scorso il sangue per queste dispute teologiche. Sant'Atanasio uscì da un concilio con un braccio rotto, perché si sono dati di santa ragione per definire certe questioni teologiche sulle due nature di Cristo e così. E invece la mistica vola alto. È sobria, è leggera, sì. È poetica, ma vola alto. Diceva Simone Weil: i mistici delle religioni si incontrano in Dio. I mistici si incontrano in Dio. E mentre parlava Francesco Roald, mi ha fatto ricordare, sì, il Buddha, eccetera, le vergini nel paradiso musulmano, che restano sempre vergini. Ah sì, dice il Corano, lo stesso. Delle giovani, delle vergini, eternamente vergini, per cui... Ah, quello sempre contento con l'altro. Tipo le geishe e così via, ma non sono lì per soddisfare piaceri carnali quando la carne non c'è più. E mi ricordava Rumi, Mevlana, no? Di Rumi, che alla fine del grande Sema, la danza dei dervisci, così, li fa di nuovo accostare la parete e pronunciare l'unica sillaba di quella danza spirituale. Che bello. Finché hanno fiato in gola, che significa lui, non Allah, ecco. Buddha, Yahweh, Geova, ma sì, Yahweh o Geova, no, lui cantano i sufi alla fine della settimana. Quindi e la mistica ci invita a guardare sempre oltre, a non fermarci alle piccolezze, alle meschinità. Sì, è giusto che abbiamo la nostra lingua, ma se qui in Alto Adige capissimo che acqua si può dire acqua, vassa, ega, ma nel frattempo anche voda, water, agua, eccetera, eccetera, ecco. Avremmo capito tutto, diciamo la stessa cosa in modi diversi, con esperienze diverse. E diceva molto bene anche Francesco, questi aforismi vanno letti uno alla volta, centellinati, perché sono degli squarci importanti. Apro a caso, dal terzo libro, la pietra filosofale in te. È interessante. Uomo, ritorna in te stesso, perché non si può primieramente cercare la pietra filosofale in terre straniere. E questo aforisma, per chi pratica molto le biblioteche, è la tesi sviluppata in un altro registro da Paolo Coelho nel suo grande successo L'Alchimista. Ragazzino che parte, gira le piramidi, eccetera, eccetera, e il tesoro lo rimanda nella sua umile casupola, lì c'è il tesoro. Quindi torna in te stesso, uomo, rientrare in se stesso, non divertirsi, non uscire di sé, ma rientrare in se stessi. Cioè, sono dei contributi importanti. E mi viene in mente anche un'altra cosa. Chissà perché noi oggi, con la sempre smania di novità, un libro dopo 3 mesi sparisce dalla faccia della terra, il libraio non ce l'ha più e la casa editrice comincia a darlo robe da matti. Ecco, riscoprire anche questi classici, una volta venivano chiamati, questi autori che resteranno sempre, perché sono stati vagliati dai secoli. Ecco, l'ultimo romanzetto, fra 3 mesi non sappiamo che cosa sia. Ecco, questo in interiore homine sta la verità, no? All'interno dell'uomo, Sant'Agostino. Leggiamoli questi grossi autori, perché questa smania del nuovo non porta tanto lontano. Non è detto che il nuovo sia sempre e per principio buona cosa. Non è detto che la tecnologia, non so, a me la bomba atomica, chissà perché, non piace. Piacerà a voi, non lo so, no? Non è che tutto il nuovo va bene. Così, se qualcuno ha qualche cosa da dire, se c'è qualche intervento. Non è da dire, mi ha fatto ricordare un paio di episodi molto limitanti come episodi. Senti che mi avvicino perché sono sordo come una campana. Praticamente volevo dire. Grazie. Volevo dire una cosa da quale penso sempre più spesso inoltrandomi nel tempo, e cioè le uniche 2 volte in cui io ho letto e visto una vera letizia nello sguardo di una persona, rarissima espressione che non era la felicità, ecco, luminosità, no, era una pacatezza collocata in una dimensione più alta del concreto. Queste 2 sole volte sono state in 2 abbazie, la Certosa di Pavia e l'abbazia di Praglia. 2 monaci avevano negli occhi qualcosa, appunto, alla quale io penso spesso, perché nel chiasso terrificante dell'attualità e dell'oggi, che mi dà un fastidio crescente e da cui io cerco di fuggire, mi ritornano in mente queste 2 persone delle quali io ho pensato: questi sono salvi. Adesso più divento anziana, più capisco che quelle 2 persone, che non erano certamente dei geni o niente, però avevano trovato una dimensione che li salvava, e con questa dimensione guardavano il mondo in un modo che io invidio moltissimo, perché ne erano staccati seppur parteci. Ecco, ecco, è interessante, vede, l'ha detto bene. Questa un distacco che però è anche partecipazione. Questa era la letizia, proprio 2 volte. Così come, termino, spesso e sempre più spesso, penso a un fatto di cronaca che ci ha colpito tutti, successo tempo fa, cioè la morte di Giovannino Agnelli, quel bellissimo giovane erede degli Agnelli, che certo, sul quale poi è andato negli Stati Uniti, per curare un tumore. Lui aveva riversato un'incredibile quantità di doni, tutto aveva. L'intelligenza, la ricchezza, la voglia di fare, la giovinezza, è tutto stroncato in pochi mesi da una malattia incurabile, 60 casi in tutto il mondo. Tutte le ricchezze di questo mondo non potevano bastare per salvare quel giovane. Ci penso spesso, allora dico, ma ha dato la misura della nostra nullità, del nostro essere polvere in procinto di ritornare polvere, e della necessità per chi vive e deve stare vicino e deve essere lì, la necessità di accettare. E questo tema dell'accettazione profonda, che è l'unica che possa consentire di sopravvivere in questi frangenti, è uno dei temi che a livello morale io trovo più difficili, però se uno ci arriva allo sguardo dei due monaci. Grazie signora, grazie. Sì, non c'è da aggiungere nulla, perché ha già detto lei, onestamente, non aggiungerei una parola, perché è eloquentissimo il discorso. Sì, anche lei menzionava le tre persone che incontra il Buddha, no? Sì, e beh... C'è però la quarta che incontra un pochino dopo, che è il monaco. Certo, sì. Indica la via, cioè la soluzione. Sì. Certo, certo, certo. Posso chiedere... Prego. È una cosa assolutamente banale. Sì. Ma questi mistici perché sono tedeschi? Ah, ce ne sono anche di altre nazionalità, sì, naturalmente. Si fa riferimento sempre prima, e sono tutti cognomi tedeschi. Prima lui ha accennato a Simone Weil, che è una mistica francese, e potrei dire di Hillesum, gente moderna, sto dicendo, non sto citando quella donna che volontariamente andò ad Auschwitz e che ha scritto parole meravigliose. No? Quando ad Auschwitz diceva: qua, signore, se tu non ci puoi salvare, sarà opportuno che noi salviamo te dentro il nostro cuore, che ti tratteniamo, perché altrimenti qua tu svanisci. Meraviglioso, insomma, altro che pretendere. No, non è vero, vi sono mistici a livello di ogni paese. E prima accennavo alla mistica spagnola, ispanica, con Giovanni della Croce e Teresa d'Avila, non lo so, i padri della Chiesa, i padri del deserto, tutta una serie di mistici meravigliosi, quelli della Filocalia, no? Basta andare in una biblioteca a cercare mistici, misticismo, e vengono fuori perlomeno tutta una serie di autori, ora da una parte, ora dall'altra. Mistici islamici, la mistica ebraica, cioè ve ne sono. Nell'ambito cristiano è interessante la mistica tedesca di questo periodo, a me personalmente ha colpito molto, ma poi ve ne sono molti altri. Posso? Prego. Ma innanzitutto devo dire che ho un debito di riconoscenza nei confronti di Don Paul, che mi ha introdotto proprio qualche settimana fa, sì. Silesio. Qui ha toccato tanti temi particolarmente cari, che danno tanti spunti di riflessione. Primo, problema e mistero. Problema o enigma si risolve in qualche modo, il mistero no. Il mistero lo si può accarezzare, perché quando una domanda non trova risposta, o meglio, accarezza il bordo del mistero, allora è inutile talvolta riempire quel vuoto con delle alterigie anche teologiche o banalità sentimentali. Credo che proprio il puro dono del mistico sia quello di andare oltre, certo, la dottrina. Adesso uso un termine che forse Don Paul mi correggerà, ma ho l'impressione che confligga con la dottrina, la vocazione del mistico, proprio perché in sé incarna quella che è questo daimon, questo spirito che spinge a un qualcosa di estatico, no? E avendo citato anche Raymond Panikkar, mi viene in mente proprio il concetto a lui caro sulla realtà cosmoteantrica, ad esempio, cioè sul panenteismo, che è forse quello in cui personalmente mi riconosco, ed è un percorso talvolta solitario ma condiviso con la comunità. E quindi trovo sia straordinario questo ascoltare se stessi autenticamente, cioè autenticamente con quella che è l'autorità che noi possediamo, quindi il concetto di Aletheia, il concetto appunto della verità. E credo sia una spinta al sacro, alla spiritualità, cosa che la società ha perso, ma ne ha bisogno. Purtroppo abbiamo esempi tangibili in cui la politica e l'istruzione hanno fallito, perché non si ferma, non ci si sofferma a pensare, a riflettere o a guardarsi negli occhi, massima espressione della benevolenza e dell'anima. Il resto sono chiacchiere. Grazie. Sì, lei ha toccato, ha sfiorato tanti temi e naturalmente giunti a quest'ora qui non si può nemmeno, oserei dire, permettersi di affrontarli. Non ultimo quello dell'aspetto dottrinale che confliggerebbe, ma confligge secondo me, poi mi dirà anche il mio illustre presentatore, dipende se la dottrina diventa una gabbia invece che un'indicazione di percorso, una mappa, che non è il territorio, la mappa non è mai il territorio, allora non confligge. Quando si voglia intendere per dottrina, per dogma, qualche cosa che chiude invece che aprire, allora certo che confligge in questo senso qui. Ma lo stesso dogma non necessariamente è una prigione, può essere una fioritura al pari della rosa. Deve essere soprattutto una tappa, e sempre in tutte le tradizioni religiose c'è più la componente dottrinale, istituzionale e quella, diciamo così, profetico, carismatica, pneumatica, no? Che si stimolano a vicenda, no? Quindi il teologo deve dire al mistico non volare troppo alto che perdi il contatto con la realtà, e il mistico deve dire al teologo tu non voler fare le pulci e conti in tasca al buon Dio, perché non va bene. Ci deve essere più che un conflitto, un dialogo, una concorrenza intesa nel senso nobile del termine, cioè correre assieme. È proprio così. Non concorrere, correre contro, no? La concorrenza di tipo economico, no? Ma il concorrere, correre insieme per stimolarsi a vicenda, diceva Cusano, no? Che Dio ha voluto la molteplicità delle religioni, anche una tesi del Corano, perché concorrono per dargli più splendido culto. Non perché si combattano. Un aneddoto interessante. Questo signore era luterano, sì. E a differenza di tanti altri che in quei periodi, no, dopo la riforma, i più passavano dal cattolicesimo al luteranesimo. Lui ha fatto l'esatto contrario, no? È passato dal luteranesimo al cattolicesimo, andando a studiare a Padova si è reso conto che, e lui lo dice anche, confessa la prima spinta che l'ha mosso a mutare, no? Dice perché il Lutero non ammette la mistica, cioè non permette di uscire, no? Ma è troppo tedesco, scusate, è una battuta che non vale nulla, ma ci capiamo, no? Non mi consente di dire qualcosa oltre appunto il testo che ti fissa. E in questo senso è molto bello, no? Per cui non c'è solo l'Inquisizione. Il cattolicesimo diceva bene anche lui, vuol dire cattolico, vuol dire universale. Che poi sia stato poco universale, magari abbiamo visto appunto questi processi, l'Inquisizione neanche parlare. No, e ovviamente oggi come oggi questa dimensione qui deve essere assolutamente bandita. Lo dice Papa Francesco, in tasca nessuno ha la verità, signori. Un Papa ha il coraggio di dire queste cose qui. Ma è vero, perché se no è menzogna. Vai, ho in tasca la verità. Grazie, signori. Signori, qualcuno vuole qualche libro? Permetto di dire che scusatemi. Pochi ma buonissimi, non pochi ma buoni, c'è stata una partecipazione grazie. Intensa perché grazie. Francesco Roate è riuscito a far vibrare le corde grazie. Del nostro animo, quindi consiglio anche di prendere il libro, e lo regalerò ad un amico e a tutti una buona serata e per commentare anche quello che diceva sì. La mia amica qui, la insoddisfazione è ciò che rende il povero il ricco e la soddisfazione è ciò che rende ricco il povero. Se si capisce questo è un messaggio casereccio della sull'accettazione.